Giovanni Verga, l'amante di Gramigna. Parecchi anni or sono, laggiù lungo il Simeto, davano la caccia a un brigante, certo Gramigna, se non erro, un nome maledetto come l'erba che lo porta, il quale da un capo all'altro della provincia si era lasciato dietro il terrore della sua fama. Carabinieri, soldati e militi a cavallo lo inseguivano da 2 mesi, senza essere riusciti a mettergli le unghie addosso. Era solo, ma valeva per 10, e la mala pianta minacciava di moltiplicarsi. Per giunta si approssimava il tempo della messa, tutta la raccolta dell'annata in man di Dio, che i proprietari non si arrischiavano a uscire dal paese per timor di Gramigna, sicché le lagnanze erano generali. Il prefetto fece chiamare tutti quei signori della questura, dei carabinieri e dei compagni d'armi, e subito in modo pattuglie, squadriglie, vedette per ogni fossato e dietro ogni muricciolo. Se lo cacciavano dinanzi come una mala bestia per tutta una provincia, di giorno, di notte, a piedi, a cavallo, col telegrafo. Gramigna sgusciava loro di mano o rispondeva a schioppettate se gli camminavano un po' troppo sulle calcagne, nelle campagne, nei villaggi, per le fattorie, sotto le frasche delle osterie. Nei luoghi di ritrovo non si parlava d'altro che di lui, di Gramigna, di quella caccia accanita, di quella fuga disperata. I cavalli dei carabinieri cascavano stanchi morti, i compagni d'armi si buttavano rifiniti per terra, in tutte le stalle. Le pattuglie dormivano all'impiedi, egli solo, Gramigna, non era stanco mai, non dormiva mai, combatteva sempre. S'arrampicava sui precipizi, strisciava fra le messe, correva carponi nel folto dei fichi d'India, sgattaiolava come un lupo nel tetto asciutto dei torrenti. Per 200 miglia all'indorno correva la leggenda delle sue geste, del suo coraggio, della sua forza, di quella lotta disperata, lui solo contro 1000, stanco, affamato, arso dalla sete, nella pianura immensa, assa sotto il sole di giugno. Peppa, una delle più belle ragazze di Licodia, doveva sposare in quel tempo compare Finu, Candela di Sego, che aveva terre al sole e una mula baia in stalla, ed era un giovanotto grande e bello come il sole, che portava lo stendardo di Santa Margherita come fosse un pilastro, senza piegare le reni. La madre di Peppa piangeva dalla contentezza per la gran fortuna toccata alla figliuola e passava il tempo a voltare e rivoltare nel baule il corredo della sposa, tutto di roba bianca a 4, come quella di una regina, e orecchini che le arrivavano alle spalle e anelli d'oro per le 10 dita delle mani. Dell'oro ne aveva quando ne poteva avere Santa Margherita, e dovevano sposarsi giusto per Santa Margherita, che cadeva in giugno, dopo la mietitura del fieno. Candela di Sego, nel tornare ogni sera dalla campagna, lasciava la mula all'uscio della Peppa e veniva a dirle che i seminati erano un incanto se Gramigna non vi appiccava il fuoco e il graticcio di contro al letto non sarebbe bastato a contenere tutto il grano della raccolta, che gli pareva 1000 anni di condursi la sposa in casa, in groppa alla mula baia. Ma Peppa un bel giorno gli disse: «La vostra mula lasciatela stare, perché non voglio maritarmi». Figurati il putiferio! La vecchia si strappava i capelli, Candela di Sego rimasto a bocca aperta. Che è? Che non è? Peppa si era scaldata la testa per Gramigna, senza conoscerlo neppure. Quello sì che era un uomo. Che ne sai? Dove l'hai visto? Nulla. Peppa non rispondeva neppure, con la testa bassa, la faccia dura, senza pietà per la mamma che faceva come una pazza, coi capelli grigi al vento e pareva una strega. Ah, quel demonio è venuto sin qui a stregarmi la mia figliuola. Le comari, che avevano invidiato a Peppa il seminato prosperoso, la mula baia e il bel giovanotto che portava lo stendardo di Santa Margherita senza pregare le reni, andavano dicendo ogni sorta di brutte storie, che Gramigna veniva a trovare la ragazza di notte in cucina e che glielo avevano visto nascosto sotto il letto. La povera madre teneva accesa una lampada alle anime del purgatorio e persino il curato era andato in casa di Peppa a toccarle il cuore con la stola, onde schiacciare quel diavolo di Gramigna che ne aveva preso possesso. Però ella seguitava a dire che non lo conosceva neanche di vista quel cristiano, ma invece pensava sempre a lui. Lo vedeva in sogno, la notte, e alla mattina si levava con le labbra arse, assetata anch'essa come lui. Allora la vecchia la chiuse in casa, perché non sentisse più parlare, di gramigna, e tappò tutte le fessure dell'uscio con immagini di santi. Peppa ascoltava quello che dicevano nella strada, dietro le immagini benedette, e si faceva pallida e rossa, come se il diavolo le soffiasse tutto l'inverno nella faccia. Finalmente si sentì che avevano scovato gramigna nei fichidindi di Palagonia. «Ha fatto 2 ore di fuoco», dicevano. «C'è un carabiniere morto e più di 3 compagni d'armi feriti». Ma gli hanno tirato addosso tal gragnuola di fucilate che stavolta hanno trovato un lago di sangue dove egli era stato. Una notte Peppa si fece la croce dinanzi al capezzale della vecchia e fuggì dalla finestra. Gramigna era nei fichi d'India di Palagonia. Non avevano potuto scovarlo in quel forteto da conigli, lacero, insanguinato, pallido per 2 giorni di fame, arso dalla febbre e con la carabina spianata. Come la vide venire, risoluta, in mezzo alle macchie fitte nel fosco chiarore dell'alba, ci pensò un momento, se dovesse lasciar partire il colpo. «Che vuoi?» le chiese. «Che viene a far qui?» Ella non rispose, guardandolo fisso. «Vattene», disse egli, «vattene finché t'aiuta Cristo». «Adesso non posso più tornare a casa», rispose lei. «La strada è tutta piena di soldati. Cosa mi importa? Vattene!» E la prese di mira con la carabina. Come essa non si muoveva, Gramigna, sbalordito, le andò coi pugni addosso. «Dunque, sei pazza o sei qualche spia?» «No», disse ella, «no». «Bene, va a prendermi un fiasco d'acqua, laggiù nel torrente quando è così». Peppa andò senza dir nulla, e quando Gramigna udì le fucilate, si mise a schignazzare e disse fra sé: «Queste erano per me». Ma poco dopo vide ritornare la ragazza col fiasco in mano, lacera e insanguinata. Egli le si buttò addosso, assetato, e poiché ebbe bevuto da mancargli il fiato, le disse infine: «Vuoi venire con me?» «Sì», accennò ella col capo avidamente, «sì». E lo seguì per valli e monti, affamata, seminuta, correndo spesso a cercargli un fiasco d'acqua o un tozzo di pane a rischio della vita. Se tornava con le mani vuote, in mezzo alle fucilate, il suo amante, divorato dalla fame e dalla sete, la batteva. Una notte c'era la luna e si udivano latrare i cani, lontano nella pianura. Gramigna balzò in piedi a un tratto e le disse: «Tu resta qui o t'ammazzo come vero Dio». Lei, addossata alla rupe, in fondo al burrone, lui invece a correre tra i fichi d'India. Però gli altri, più furbi, gli venivano incontro giusto da quella parte. «Ferma, ferma!» e le schioppettate fioccarono. Peppa, che tremava solo per lui, se lo vide tornare ferito, che si trascinava appena e si buttava carponi per ricaricare la carabina. «È finita», disse lui, «ora mi prendono». E aveva la schiuma alla bocca, gli occhi lucenti come quelli del lupo. Appena cadde sui rami secchi come un fascio di legna, i compagni d'armi gli furono addosso tutti in una volta. Il giorno dopo lo trascinarono per le vie del villaggio, su di un carro, tutto lacero e sanguinoso. La gente gli si accalcava intorno per vederlo, e la sua amante, anche lei, ammanettata come una ladra, lei che ci aveva dell'oro quando Santa Margherita. La povera madre di Peppa dovette vendere tutta la roba bianca del corredo e gli orecchini d'oro e gli anelli per le 10 dita, onde pagare gli avvocati di sua figlia e tirarsela di nuovo in casa, povera, malata, svergognata e col figlio di Gramigna in collo. In paese nessuno la vide più mai. Stava rincattucciata nella cucina come una bestia feroce e ne uscì soltanto allorché la sua vecchia fu morta di stenti e si dovette vendere la casa. Allora di notte se ne andò via dal paese, lasciando il figliuolo ai trovatelli senza voltarsi indietro neppure, e se ne venne alla città dove le avevano detto che era in carcere Gramigna. Gironzava intorno a quel fabbricato tetro, guardando le inferriate, cercando dove potesse esser lui, con gli sbirri alle calcagna, insultata e scacciata ad ogni passo. finalmente seppe che il suo amante non era più lì. L'avevano condotto via, di là del mare, ammanettato e con la sporta al collo. Che poteva fare? Rimase dov'era, a buscarsi il pane rendendo qualche servizio ai soldati, ai carcerieri, come facesse parte la stessa di quel gran fabbricato tetro e silenzioso. Verso i carabinieri, poi, che le avevano preso gramigna nel folto dei fichi d'India, sentiva una specie di tenerezza rispettosa, come l'ammirazione bruta della forza. Ed era sempre per la caserma, spazzando i cameroni e lustrando gli stivali, tanto che la chiamavano lo strofinacciolo della caserma. Soltanto quando partivano per qualche spedizione rischiosa e li vedeva caricare le armi, diventava pallida e pensava a gramigna.